Questo dunque è il racconto di Cristina Carpinelli a proposito dei referendum sull'acqua e andando anche a vedere che cosa succede in quei comuni dove la privatizzazione dei servizi è già stata fatta e sviluppata. C'è l'incuria della rete idrica, i fondi dei comuni non sono sufficienti per gli investimenti, così nasce dunque la privatizzazione dei servizi. Ma è proprio sicuro che i comuni non possano guidare questi processi di modernizzazione sull'acqua? È questo il punto di vista dei comitati promotori dei referendum. E voi che cosa ne pensate? Avete ancora una settimana di tempo a disposizione, intanto continuate a seguirci e scriveteci controluce@radio24.it. Vi ricordo gli appuntamenti in questa settimana perché torneremo a parlare di referendum con il nucleare e il legittimo impedimento. È tutto, ci sentiamo domani alle 6.30.